Sono Devana, figlia di Liliana. Quando ho ideato il canale La Scuola delle Donne nel 2017, avevo deciso di non caricare libri miei. E infatti finora mi sono attenuta a questa regola. I miei libri sono disponibili in versione audio sull'altro canale YouTube, Devana Vision. Ma dopo 2 anni di lavoro giornaliero per La Scuola delle Donne, mi sono resa conto che un nuovo contributo femminile sul pensiero economico fosse non solo interessante, ma anche necessario per chi segue e vuole approfondire la visione femminile del mondo. E essendo io laureata in economia, mi sento autorizzata a parlarne, anche se nessuno mai me lo farà fare in ambito accademico. All'età di 7 anni ricevetti una visione, un sogno lucido di una società evoluta in cui si viveva senza denaro e nella libera condivisione. La memoria di questa visione è rimasta con me negli anni finché dopo la laurea cominciai a scriverla e la pubblicai prima a puntate su una rivista olistica e poi in questo libro che vi propongo, edito da Melchisedec nel 2008. Il tema dell'utopia non è certamente nuovo. Molti illustri pensatori del passato, Moro, Campanella, Bacone, Tolstoi, per dirne solo alcuni, hanno parlato della società perfetta che vive nella comunione, scambiando liberamente i prodotti del suo lavoro senza ricorrere al denaro. Una società felice, perfetta, che vive nell'abbondanza e nella gioia. Ma risalendo ancora più indietro, arriviamo alle comunità matrifocali neolitiche riscoperte da Maria Jean Butas. Ed è da lì che venne la mia visione e quella degli altri prima di me. Non fu un sogno, ma un vero e proprio risveglio di memorie. Da lì veniamo e ce ne ricordiamo. È un sistema che viaggia su una frequenza diversa, non duale, ma unitaria. Nel sistema economico delle culture matrifocali neolitiche troviamo il perfetto modello di produzione e condivisione dei beni basato sull'equità e sulla giustizia di una grande famiglia. A 7 anni però non avevo ancora letto Maria Jean Butas. Non potevo essere stata influenzata dall'esterno. Questo significa che la memoria cellulare conserva questo modello e che ognuna di noi può avervi accesso superando la distorsione dell'attuale modello economico che consideriamo l'unico possibile. Di seguito vi offro un riassunto del pensiero cosiddetto utopistico prima di me e successivamente del mio modello economico. Il libro è anche scaricabile gratuitamente dal mio sito in versione PDF nella sezione libri. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.